come ci sognavi a questa età, con la casa al mare di nostra proprietà. No, che non è uguale questa realtà, stare in mezzo al mare è tutto che non va, non va. Questa venire qua, ci hanno detto molto e dato la metà. Quanti assegni ti sogni, chi li pagherà? Quali scuse, case, cose ci rimangono? 100 metri di sale a piano oceano, ti va? Questa venire. Se ci rimangono 100 metri di sale a piano oceano, ti va questa avvenire? Cavarcela.